أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Buonasera, siete collegati con una nuova puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Siamo come di consueto in collegamento telefonico con Davide. Davide, ci senti bene? Buonasera a tutte e a tutti. Perfetto. Direi di fare una breve scaletta di questa puntata, partendo appunto dal reportage pubblicato da Al Jazeera il 17 ottobre, che appunto parla dei coloni israeliani che stanno commettendo violenti attacchi quotidiani contro i palestinesi che raccolgono i loro ulivi per la stagione. Parleremo del nuovo insediamento israeliano che a Gerusalemme Est e dell'assalto dei coloni appunto alla Cisgiordania, sempre rimanendo in tema con l'articolo comparso sul Manifesto a firma di Michele Giorgio proprio il domenica 17 ottobre. È lo stesso Michele Giorgio che appunto ci parla del Negev, in cui 200.000 beduini lottano per il riconoscimento dei loro villaggi. Questa è una disputa che va avanti da diversi anni, infatti anche noi in passato abbiamo già affrontato questo argomento. E poi purtroppo dobbiamo riportare insomma una notizia avvenuta la settimana scorsa, perché in Libano alcuni cecchini hanno sparato sui manifestanti di Amal e Hezbollah, che sono due organizzazioni filo-sciite libanesi. Sono rimaste uccise 60 persone e ci sono state svariate decine di feriti. In più ci sono gli Stati Uniti, che appunto c'è questo articolo comparso su Pagine Esteri che si intitola "Leader delle democrazie occidentali e maestri delle torture", che appunto insomma parla di come gli Stati Uniti e soprattutto i leader occidentali siano appunto cattivi maestri, ma non come piace a noi. E inoltre insomma parleremo anche dei bombardamenti strategici USA in Africa e nel Mediterraneo. Davide, appunto io direi di cominciare da quello che succede in Palestina. A te. In quanto nelle ultime settimane si sono intensificati gli attacchi dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi che per la raccolta delle ulive. Infatti gli attacchi, che includono percorsi agli agricoltori, la distruzione di alberi, hanno preceduto l'inizio formale di quella che è la stagione della raccolta delle ulive, che parte il 12 ottobre nella Cisgiordania occupata. Questi attacchi si sono intensificati nell'ultima settimana. Infatti, secondo gli osservatori locali, le aree più colpite sono state nella Cisgiordania occupata settentrionale, intorno ai villaggi a sud della città di Nablus e Salfit. Ricordiamo che la raccolta degli ulivi è un'attività economica, familiare e sociale fondamentale per molti palestinesi, oltre che un'attività che rappresenta appunto l'ulivo, la storia della Palestina. E molti palestinesi prendono giorni di ferie per prendersi cura delle loro terre o di quelle dei loro parenti, dei vicini o degli amici. Infatti tra le 80.000 e le 100.000 famiglie si affidano alle olive e all'olio d'oliva come fonti di reddito primarie o secondarie, e gli attacchi dei coloni sono una realtà frequente, quasi quotidiana ovviamente per i villaggi palestinesi, ma il numero e l'intensità degli attacchi aumentano proprio durante la stagione della raccolta delle olive, che dura fino a novembre, poiché i coloni prendono di mira le famiglie che lavorano nelle loro terre. Infatti il 12 ottobre nel villaggio di Sebastia a nord di Nablus i coloni hanno sradicato 900 alberi di ulivi e albicocche e hanno rubato le coltivazioni di olive. Altri 70 ulivi sono stati distrutti a Maser Fiatta a sud di Hebron. Ad Awarta a est di Nablus il 13 ottobre i coloni hanno abbattuto dozzine di ulivi e le hanno spruzzati con prodotti chimici. Hanno anche distrutto circa 70 alberi di ulivo, frutta e verdura ad Altuani a sud di Hebron, e hanno tagliato pneumatici pneumatici e vandalizzato auto e muri nel villaggio di Marda vicino a Salfit. Il 14 ottobre, sempre secondo quanto riporta Al Jazeera, i coloni hanno abbattuto più di 80 ulivi nel villaggio di Al-Mughayr, a nord di Ramallah. Il giorno dopo hanno attaccato con pietre la famiglia Hammoden nel villaggio di Yasuf vicino a Salfit, ferendone 4. La famiglia e altri residenti sono stati attaccati di nuovo il 16 ottobre. I coloni hanno anche picchiato con manganelli i residenti di Burin vicino a Nablus e dato alle fiamme uliveti, ferendo almeno 12 palestinesi. Gli attacchi, come sottolineano alcune persone intervistate appunto dai corrispondenti di Al Jazeera, sono iniziati presto quest'anno, rispetto al previsto, in quanto essendo ormai connaturati questi attacchi all'inizio della raccolta delle olive, per i palestinesi ormai sono diventati una cosa normale, anche se non si può mai normalizzare l'occupazione, però quanto la stessa diventi una routine anche nella mente delle persone. Quest'anno invece questi attacchi sono iniziati presto, in quanto dalla fine di agosto del 2021 i coloni hanno ferito almeno 22 palestinesi e distrutto almeno 1.800 alberi di proprietà palestinese, inclusi 900 alberi a Sebaste, a Nablus, 650 a Jamin, a Nablus, e al Tayeb a Hebron. Il 14 ottobre i coloni hanno abbattuto più di 80 olivi, quindi a nord di Ramallah. Quindi è un'escalation che viene sottolineata dallo stesso Michele Giorgio, che il 17 ottobre sul manifesto infatti ha intitolato come ha collegato infatti questo assalto dei coloni in Cisgiordania al nuovo insediamento israeliano a Gerusalemme Est. E infatti una commissione israeliana per la pianificazione edilizia ha dato il via libera al primo insediamento coloniale ebraico in 30 anni a Gerusalemme Est. E nel frattempo si moltiplicano appunto le aggressioni che vi testimoniavamo anche poc'anzi a danno dei palestinesi che raccolgono le olive. L'aggressione che infatti vi riportavamo prima, quella della famiglia palestinese a Yasuf, è stata infatti talmente grave, come ha sottolineato Michele Giorgio, che è intervenuto anche il ministro della difesa Benny Gantz per condannarla. Ovviamente poi l'altro ieri è stata la volta di Burin con gli ulivi e i frutteti dati alle fiamme di cui vi parlavamo prima. Da alcune settimane si parla comunque anche in qualche media israeliano di questa violenza dei coloni che sono stati i protagonisti di questo attacco in massa, che è documentato anche nell'articolo riportato sul manifesto di cui vi stiamo parlando. C'è proprio il video che testimonia l'attacco in cui sono stati feriti 12 palestinesi, tra cui un bambino di 3 anni. Eppure, in tutto questa condanna della violenza dei coloni, la colonizzazione non ha sosta e non riguarda appunto solo la Cisgiordania. Infatti, una commissione israeliana per la pianificazione edilizia ha dato il via libera al primo insediamento coloniale ebraico a Gerusalemme Est dopo 30 anni, e su territori espropriati saranno infatti costruiti 1.257 alloggi che formeranno di fatto una nuova colonia accanto a quella di Givat Hamatos. Una volta completate queste nuove costruzioni, taglieranno a metà la Cisgiordania e renderanno impossibile la nascita di uno Stato palestinese con un territorio omogeneo. Israele, come ci ricorda Michele, pianifica l'espansione di altri insediamenti a Gerusalemme Est, a cominciare dalla costruzione di 470 alloggi a Pisgat Zev, 200 a Ramat Shlom e 540 a Roma. Mi scuso per la pronuncia, ovviamente. Un altro progetto, noto come E1, prevede l'edificazione di centinaia di alloggi per collegare gli insediamenti di Kfar Dumin e Maladumim, con Gerusalemme Est, e l'espansione di Atarot vicino alla statale 443, che viene chiamata dai palestinesi la strada dell'apartheid perché passa accanto ai sobborghi di Gerusalemme Est, recintati dalle esercito israeliano, ovviamente una strada a cui i palestinesi è vietata. Inoltre, ci ricorda sempre il buon Michele Giorgio, sotto la pressione dell'ex presidente USA Barack Obama, Israele aveva congelato la costruzione di alloggi a Ramat Shalom nel 2010 e Givat Hamatos nel 2014. L'amministrazione Biden invece critica a voce bassa la colonizzazione e l'approvazione di questa nuova costruzione di case è arrivata mentre il ministro degli esteri israeliano, Yair Lapid, era in visita a Washington DC. E secondo il quotidiano Haaretz, Lapid ha ascoltato in privato solo alcune deboli obiezioni da parte dei funzionari statunitensi, che deboli obiezioni virgolettato. Quindi questo per dire come la colonizzazione prosegue indisturbata, gli attacchi dei coloni, seppur condannati anche addirittura dal ministro della difesa israeliano, non cessano proprio perché collegati alla natura dello Stato ebraico, o una natura coloniale, anzi di colonialismo di insediamento, per cui tutte queste attività si inseriscono appunto in una pratica che ormai va avanti da più di 70 anni ed è anche incontrastata. Purtroppo solo le parole, ci sono solo poche parole di opposizione, ma vediamo come la linea americana alla fine consente ad Israele tutto e ovviamente per il resto invece si arriva a lanciare le bombe. Questa è la differenza, i due pesi e le due misure. إبراهيم ارفع بعد الرايا عيون الأرض أقسمنا اليمين أبو إبراهيم ودّع عز الدين دمه عربي قلبه فلسطيني أبو إبراهيم ودّع عز الدين دمه عربي قلبه فلسطيني يعرض نيشان على صدر الغروب عشر الصور اساميهم مطلوب يعرض نيشان على صدر الغروب عشر الصور اساميهم مطلوب بيرد النار من شرق ومن شام قصه اسرار على الشجر مكتوب ابو ابراهيم طول الطار رح يبكي المنارة أبو إبراهيم ودع عز الدين دمه عربي قلبه فلسطيني أبو إبراهيم ودع عز الدين دمه عربي قلبه فلسطيني قال القسام يا أرض الجود استشهدنا بدينا مشدود قال القسام يا أرض الشدود استشهدنا بدينا مشدود يا أبو إبراهيم لسه الأيام جاية لا تبدع لي بمسك البارود أبو إبراهيم Chiaramente, appunto, proprio perché siamo in tema di colonizzazione, purtroppo, io direi di proseguire sullo stesso argomento. Infatti, come dicevamo pure in apertura, riportiamo questo articolo di Michele Giorgio, appunto, comparso il 16 ottobre, in cui puntualmente Michele Giorgio, appunto, ci ricorda quella che è la triste vicenda dei beduini che abitano il deserto del Negev in arabo, o Nakab come lo chiamano gli israeliani. E purtroppo questa che è un'area desertica storicamente abitata da palestinesi, anche questa è sotto le mire di colonizzazione sionista. Infatti, i beduini erano 110.000, sparsi per i 12 milioni di dunum, che sono circa 1.200 chilometri quadrati all'interno di questo deserto. Però decine di migliaia furono cacciati via o fuggirono durante la guerra, trovando rifugio in gran parte in Giordania. Altri sono finiti nella striscia di Gaza. E chi è riuscito a sfuggire a quella sorte, ha poi quasi sempre affrontato un destino amaro e difficile. Sono cittadini israeliani, i beduini del Negev, e parecchi di loro, a differenza dei palestinesi in Israele, svolgono su base volontaria il servizio di leva. Ciò però non risparmia loro di dover combattere ormai da decenni una battaglia per il riconoscimento dei loro villaggi e contro i piani avviati da vari governi israeliani per costringerli ad abbandonare le terre, dove tra l'altro hanno vissuto per secoli. E infatti, secondo questi piani, si dovrebbero trasferire a Ra'at, 80.000 abitanti, che è la più grande città beduina al mondo. E ecco, proprio per rimuoverli da queste terre che Israele ha definito coloniali, è in atto questa battaglia. Attia Alassane è stato uno dei protagonisti di questa battaglia e ci ricorda, infatti Michele Giorgio ne riporta le parole, in tanti anni purtroppo siamo riusciti a far riconoscere solo 12 dei 47 villaggi, mentre intorno a noi sono spuntati come funghi città e insediamenti destinati agli israeliani ebrei, senza limiti di spazio. A noi invece hanno dato appena 680.000 dunum, che sono equivalenti a 68.000 ettari, ossia il 2,8% delle terre. In più, l'elevato numero di demolizioni di abitazioni e di altre strutture ordinate dalle autorità nei villaggi beduini, che sono oltre 100.000 nel corso degli anni, e sono state circa 2.000 nel 2020. Umm Aliram è una delle vittime principali del piano Prawer, presentato 10 anni fa e approvato in via definitiva nel 2013. Questo piano prevede il trasferimento di 70.000 beduini nelle cosiddette township. Così, lo Stato di Israele, si intende, nega i servizi di base ai 35 villaggi non riconosciuti per costringere i suoi abitanti a rinunciare alla loro terra ancestrale e a uno stile di vita legato, ad antiche tradizioni. Inoltre, viene sottolineato all'interno di questo articolo che il 60% della popolazione beduina, nel Negev ha meno di 18 anni e che l'evasione scolastica resta elevata a causa anche delle difficoltà che migliaia di ragazzi hanno nel raggiungere le scuole, dei villaggi non riconosciuti, proprio per mancanza di trasporti pubblici. Ma nonostante questa situazione, ci sono anche un 11-12% di giovani beduini all'interno delle università. Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine, free, free, Palestine, free, free.

Hezbollah qualche giorno fa ha chiesto la rimozione di Bitar. Le due formazioni sciite affermano che i cecchini non mai identificati hanno aperto il fuoco per primi contro i manifestanti e denunciano l'aggressione da parte di gruppi organizzati. I franchitiratori, secondo le due organizzazioni, erano appostati sui palazzi di fronte, sugli edifici del quartiere Ain Reman, nota roccaforte dei partiti cristiano-maroniti che appunto sono rivali dei due movimenti sciiti, arroccati invece nell'antistante quartiere di Shia. E Davide, chiaramente oltre a questo fatto estremamente increscioso che è avvenuto nella capitale del paese dei Cedri, che abbiamo avuto il piacere di conoscere, purtroppo il Libano è da un bel po' di tempo che si respira una brutta aria di guerra civile, soprattutto a causa della crisi economica bruciante che ha sprofondato il paese in una crisi che appare senza possibilità di risoluzione, tant'è vero che nelle scorse settimane addirittura ci sono stati lunghi blackout che continuano a susseguirsi dovuti proprio all'esaurimento di carburante all'interno delle centrali elettriche del paese, che per lo più è dipendente per la quasi totalità dalle importazioni per quanto riguarda sia i prodotti alimentari, ma diciamo quasi ogni tipo di prodotto, perché in realtà il Libano non è in grado di provvedere alla propria sussistenza, in quanto è sempre stato un paese principalmente dedito agli scambi economici e finanziari. Comunque Davide, per voltare pagina, diciamo, ci volevi parlare... Sì, Michele, negli Stati Uniti, anche perché visto che stiamo registrando oggi, 18 ottobre, proprio oggi è morto Colin Powell per Covid-19, e Colin Powell, l'ex segretario agli esteri degli Stati Uniti, lo ricordiamo proprio per introdurre la notizia di cui parlavamo anche in apertura riguardo alle torture, alle carceri, un argomento che noi battiamo spesso in generale, non solo per riguardo la Palestina, e per ricordare un po' chi era Colin Powell, giusto così. Molti di noi lo ricordano molto bene, anzi è ricordato da tutti per il suo discorso tenuto il 5 febbraio del 2003 al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in cui sostenne l'esistenza di prove, esibendo addirittura una fiala che conteneva una polvere bianca, se ti ricordi, Michele, sul possesso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno di Saddam Hussein, per giustificare appunto l'intervento militare. Parlando di quelle armi batteriologiche in possesso dell'Iraq, Powell mostrò ai rappresentanti degli altri paesi con un gesto molto teatrale appunto questa fiala che conteneva la polvere bianca, e aggiunse che l'Iraq avrebbe potuto produrre circa 25.000 litri di antrace, secondo quanto dicevano gli ispettori delle Nazioni Unite. Il discorso fu così drammatico ed efficace, come riportano oggi cari mezzi di informazione, che anche molti liberal americani che non erano favorevole alle politiche dell'amministrazione Bush ne furono così influenzati da poi votare l'intervento in Iraq. In realtà poi alla fine come si è stato dimostrato successivamente, non c'erano né laboratori né arsenali di armi di distruzione di massa in Iraq, e infatti nel 2008 le indagini dell'FBI sugli attentati all'antrage si conclusero con l'evidenza di un'assenza di prove, e quindi Powell poi dopo definì questo suo discorso una macchia sulla sua guerriera, però è stata funzionale a quella a provocare una guerra i cui strascichi ce li portiamo ancora ai giorni d'oggi. Vediamo ora a quello che è successo con il ritiro dall'Afghanistan. Ebbene, è proprio in quella guerra che si svilupparono i metodi e si perfezionarono quei metodi di tortura di cui l'America ne è un'esportatrice. Infatti, ci riferiamo all'articolo apparso su Pagine Esteri, scritto da Marco Cinque, che riguarda appunto gli stati, intitolato Gli Stati Uniti, leader delle democrazie occidentali e maestri delle torture. Infatti, la tortura non è una pratica che è stata utilizzata solo negli ultimi decenni, ma è una parte consolidata della storia degli Stati Uniti, che risale infatti ai tempi pre-rivoluzionari, come ricorda il caro Marco Cinque. Infatti, tra le tecniche più note ed umilianti, c'era la cosiddetta catramatura e piumaggio. Le fotografie che potete vedere sull'articolo su Pagine Esteri sono emblematiche, che per farvi capire il livello, che era già praticata appunto dai coloni angloamericani. In tempi più recenti, del 1963, la CIA aveva fornito i suoi agenti di un accessorio formativo noto come QBARC Interrogation Manual, cioè una guida di 128 pagine che istruivano sulle tecniche di tortura durante gli interrogatori. Lo stesso manuale è stato utilizzato anche per addestrare le milizie latinoamericane sostenute dagli Stati Uniti presso la School of American tra il 1987 e il 1991. Per arrivare ai giorni nostri, quello che ci tiene a sottolineare Marco è che John Jessen e James Mitchell ci sono appunto psicologi statunitensi che hanno progettato le cosiddette tecniche di interrogatorio avanzate. Infatti, nel 2002 i due psicologi militavano attivamente a Kobalto, il carcere segreto della CIA vicino a Kabul in Afghanistan. Le torture più evolute sono però, se andiamo a guardare bene, soltanto un aggiornamento dei famosissimi menu previsti nelle vecchie carceri di massima sicurezza statunitensi negli anni 80 e 90, e quanto ai metodi usati allora erano chiamati allora manganelli psichici, vale a dire metodi violenti e dolorosi che non lasciano segni evidenti sul corpo, ma che fanno a pezzi la psiche del torturato. Infatti, in queste prigioni sono state utilizzate le tecniche più avanzate di interrogatorio. Ovviamente la più gettonata, di cui spesso parliamo anche in riferimento soprattutto alla Palestina, è quella del waterboarding, che consiste nell'immobilizzare un individuo in modo che i piedi si trovano più alto della testa e versargli acqua sulla faccia coperta da un panno. Oppure abbiamo il confinamento in minuscole scatole di costrizioni per molti giorni. Ne abbiamo visto un assaggio utilizzato dagli israeliani, se ti ricordi, Michele, nella regione di Qiyam in Libano, in quella gabbia di latta dove venivano messi i prigionieri. Oppure un'altra tecnica di tortura sono le docce gelate, i suoni assordanti ininterrotti sparati nelle celle, l'uso di pistole elettriche, i gas urticanti, l'alimentazione infusa per via rettale, il walling, cioè un collare applicato ai detenuti appesi ad una corda e sbattuti contro i muri, materiale plastico che amplifica il suono dell'urto e tanto altro ancora. Sono tanti gli esempi che riporta Marco, ma quello che ci tiene a sottolineare è come nel 2009 l'ex presidente statunitense Barack Obama chiese il divieto per i metodi di waterbombing, ma il suo successore Donald Trump non ha esitato a riportare immediatamente indietro la lancetta della civiltà. Anzi, Donald Trump fece un'affermazione che suona come un vero e proprio inno alla tortura. Se penso che la tortura funzioni, certo che funziona, rispose Trump, ma anche se non funzionasse, questi prigionieri la meritano lo stesso. Uno dei numerosi ospiti delle macellerie a stelle e strisce fu Abu Zubaydah, un sospettato di terrorismo detenuto a Guantanamo Bay, dove rimase per 14 anni senza processo e né condanna. Per le letture subite, perse l'occhio sinistro e venne sottoposto alla pratica crudele del waterboarding. Come lui riporta, diceva che avevo i ceppi ovunque, anche alla testa, non potevo muovermi. Poi mi hanno messo un panno in bocca e hanno cominciato a buttare acqua, acqua e acqua. All'ultimo momento, prima che morissi, si fermavano. Tutto questo fu ripetuto per 83 volte in solo 12 giorni. Tutte queste torture applicate dagli statunitensi nei confronti degli iracheni, degli afghani e dei loro prigionieri in guerra non sono poi differenti rispetto alle pratiche di disumanizzazione che vengono applicate nei carceri statunitensi, per lo più gestiti da società private. È un processo appunto di disumanizzazione che viene applicato a tutti i detenuti. Infatti tutti i detenuti sono costretti, dal momento in cui varcano la soglia di un carcere, sono obbligati a indossare orrende uniformi e a rinunciare al proprio nome. Il proprio nome viene sostituito da un numero di matricola. Non sono più esseri umani, dunque, ma sono privi di un'identità. Vengono, in tal senso, intesi, diventano degli ingranaggi obbedienti ad un sistema mostruoso che l'ex condannato a morte Mark Wilhelm chiamava appunto il tritacarne. Una definizione, come ci ricorda Marco V, ampiamente consona in questo caso, tragicamente calzante, che divenne anche poi il titolo di un libro. Tra le tante vicende che vengono riportate nell'articolo che vi invitiamo a leggere, con tanti riferimenti, anzi ci sono anche dei video che ricordano le pratiche di tortura utilizzate dagli statunitensi, emblematiche anche la vicenda di Mohamed Salamé, prigioniero nell'unità H del carcere di Florence, che è costretto a sedersi per 220 volte su una sediaccia nera per essere sottoposto al trattamento chiamato BOP. Immobilizzato da cinghie e catene in quella che avrebbe dovuto essere la stanza di trattamenti medici, dove è stato ogni volta alimentato con la forza attraverso una sonda infilata gli dal naso fin giù nello stomaco. Sono davvero toccanti i casi che vengono riportati nell'articolo, quindi vi invito a consultare le pagine esteri e quindi ad andare a leggerlo. Questo ci fa capire appunto quale sia la natura della società statunitense e come insi, in quanto dalle carceri di un paese possiamo capire anche il paese stesso, l'Italia inclusa, e quindi questo processo di disumanizzazione non viene applicato, è un processo generalizzato e insito nella stessa natura repressiva dello stato colonialista statunitense. Come so av deste la Betlem, come so av deste. E come son a fumagare Stephanes, come son a fumagare Stephanes, thank you. E canta, canta, canta, canta go d'ambur. E canta, canta, canta, canta balestir. Canta ganda speranza, e che speranza gam, risperado no mor. Jura Betlem, como são vocês, jura Betlem, como são vocês, jura. Eu sou a luna, mas que nego lur, eu sou a luna, mas que nego lur, eu sou a luna. É canta, canta, canta, canta com o tambor. É canta, canta, canta, canta Palestina, canta, canta a esperança, e que a esperança gama. risperato non muore. E le mie maggiori ogni mia palestina, e le mie maggiori. E canta, canta, canta, canta con tambù. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta, canta speranza, e speranza cam, risperata non muore, non muore, canta Palestina. Dopo questa canzone di Enzo Avitabile proprio sulla Palestina, e parliamo dell'articolo di Antonio Mazzeo comparso su Pagine Esteri, in cui appunto ci parla dei bombardamenti, dei bombardieri strategici USA sia in Africa che nel Mediterraneo allargato, tra virgolette. Infatti scrive Antonio Mazzeo che non bastano più evidentemente le unità da guerra di mezzo mondo per presidiare le acque del Golfo di Guinea, una delle aree geostrategiche ed economiche più rilevanti del continente africano. Il 9 giugno, infatti, per la prima volta nella storia, gli Stati Uniti d'America hanno deciso di far esercitare sui cieli dell'Africa occidentale un bombardiere B-52H, la fortezza volante che ha preso parte a tutti i maggiori conflitti degli ultimi 60 anni. Il velivolo dell'US Air Force, 48,5 metri di lunghezza e per un'apertura alare di 56,4 metri e un peso massimo al decollo sino a 200 tonnellate, dopo essere partito dalla base aerea spagnola di Moron della frontiera, ha sorvolato prima il Nord Africa e poi si è diretto verso il Golfo di Guinea per rientrare a fine missione in Spagna. Il volo su alcune regioni dell'Africa settentrionale occidentale del bombardiere strategico in forza alla Second Bomb Wing di stanza a Barksdale in Louisiana ha consentito all'equipaggio di esercitarsi ad operare in diversi spazi aerei, così ha dichiarato il generale Basham, vicecomandante delle forze aeree statunitensi in Europa e in Africa. La missione odierna ci ha fornito un'importante opportunità per testare e stabilire linee vitali di comunicazioni che saranno una componente chiave per le nostre future operazioni nell'area. Il bombardiere strategico ha un lungo raggio, infatti ha un'autonomia di volo sino a 16.000 km. Appunto questo B-52H è stato prodotto dal colosso aerospaziale Boeing a partire dalla fine degli anni 50 e grazie ai multimilionari interventi di aggiornamento è destinato ad operare fino alla fine del prossimo decennio. Si tratta di una micidiale arma di distruzione di massa, infatti può trasportare fino a 31.500 kg di bombe ed è l'unico velivolo dell'aeronautica USA che può essere armato con i missili da crociera aria-superficie AGM-86ALCM, abilitati appunto al trasporto di testate nucleari con una potenza variabile tra i 5 e i 150 kilotoni. Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'autorevole Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, le forze aeree americane avrebbero in dotazione attualmente 528 di questi missili. E appunto quest'aereo, il B-52, ne può trasportare fino a 20 contemporaneamente. Di questi 200 missili sarebbero a disposizione nelle basi aeree in cui sono schierati i bombardieri. Tutti il resto invece sarebbero stoccati in un unico de deposito protetto dell'aviazione degli Stati Uniti. Data la rilevanza militare di questi velivoli strategici, ogni loro missione è sotto il comando e il controllo diretto del Dipartimento della Difesa. Ovunque nel mondo e in ogni tempo, questo è il loro motto. E infatti, secondo quanto dicono, le missioni dei bombardieri B-52, spiega ancora appunto il comando dell'aviazione, dimostrano l'impegno degli Stati Uniti ai propri partner e riflettono l'abilità delle nostre forze a operare a favore della sicurezza globale in un ambito che è sempre più dinamico e stimolante che mai. Lo definisco appunto addirittura stimolante, mentre invece dai dati che ci riporta Mazzeo, in effetti gli Stati Uniti potrebbero tranquillamente causare un olocausto nucleare. Ed infatti ad oggi è l'unico paese che ha utilizzato la bomba atomica su una popolazione, tra l'altro civile. Infatti ricordiamo la triste vicenda di Hiroshima e Nagasaki. Comunque, proprio per proseguire in questo interessante articolo, chiaramente questi War Games che ci sono stati anche il 31 maggio, come noi del resto abbiamo anche riportato, nei cieli di tutto il vecchio continente con le forze aeree dei 20 paesi della NATO, in quella che fu denominata Operation Allied Sky. Le diverse missioni eseguite in un solo giorno dai due bombardieri, questo dichiararono all'epoca, hanno dimostrato la credibilità delle nostre forze aeree in un ambiente la cui sicurezza globale è assai diversa e più incerta di quella di ogni altro tempo della storia. Beh, chiaramente io aggiungerei, Davide, credo che sarei d'accordo, che probabilmente chi è che ci fa essere poco sicuri, anzi insicuri, sono proprio loro che detengono queste armi atomiche e che purtroppo hanno dimostrato con la storia che non avrebbero nemmeno grossi problemi ad utilizzarle. Beh, proseguirei nella lettura di questo interessante articolo, perché appunto Mazzeo ci va a ricordare quelle che sono state le varie poi esercitazioni che ci sono state negli ultimi tempi, tipo per esempio quella che c'è stata dal 7 al 9 giugno, in cui appunto nel Baltico, congiuntamente con i caccia F-16 dell'aeronautica militare sia di Danimarca che dei Paesi Bassi e degli aerei svedesi, appunto c'è stata una nuova esercitazione di questi bombardieri americani. 5 giorni più tardi, ancora una volta, ci fu il loro decollo appunto dalla base di Morona. E queste fortezze volanti all'epoca svolsero un'altra missione, che era di contenimento antirussia nel mare Egeo, insieme appunto agli F-16 di Grecia e Turchia. È ovvio che la presenza nel teatro europeo e adesso pure in quello africano è chiaro che non passa inosservata a Mosca. E infatti il 24 maggio il Ministero della Difesa russo ha ordinato lo schieramento nella base siriana di Khmeimim, nella provincia di Latakia, sul Mediterraneo orientale, appunto di alcuni cacciabombardieri strategici Tu-22 M3, utilizzabili per le operazioni di attacco, ricognizione e pattugliamento navale. Anche questi velivoli come i B-52 sono abilitati al trasporto e all'uso di testate nucleari e la loro portata massima è di 24 tonnellate di bombe appunto per ognuno di questi aerei e gli equipaggi dei bombardieri a lungo raggio acquisiranno abilità pratiche nell'esercizio di compiti di addestramento di nuove aree geografiche durante i voli nello spazio aereo sul Mar Mediterraneo, così è stato riportato dalla difesa russa. E infine, secondo quanto riferito da formiche.net, la pista dello scalo aereo siriano di cui parlavamo sono state recentemente ripavimentate. Inoltre sono stati potenziati dispositivi di comunicazione e di illuminazione notturna. I russi hanno dichiarato che adesso la base siriana è in grado di accogliere non solo Tu-22, ma anche Tu-95 e Sukhoi Su-160, il top di gamma dei bombardieri strategici russi. Aggiunge la testata. Quello che è chiaro è che Mosca sta generalmente alzando il livello della propria presenza nel Mediterraneo, come dimostra anche la grossa presenza navale negli ultimi mesi. Dalla Siria alla Libia, passando per l'intensificarsi della penetrazione africana, la Russia sta cercando sfere di intervento da trasformare in sfere di influenza. In ultimissima battuta, appunto, formiche.net avverte anche come il consolidamento russo nel cosiddetto Mediterraneo allargato preoccupi tantissimo il Pentagono, la difesa italiana e la NATO, i quali vedono minacciata la funzionalità di strutture nevralgiche della stabilità regionale e delle relazioni transatlantiche come la base di Sigonella o il MUOS e i cavi sottomarini che solcano il canale di Sicilia. All'orizzonte si ripropongono, come alla fine degli anni 70 del secolo scorso, pericolosissimi scenari di ultramilitarizzazione e nuclearizzazione dell'area mediterranea, con la Sicilia e le sue isole minori condannate a fare da piattaforma avanzata per le strategie di guerra globale del terzo millennio. Quindi, Davide, visto che siamo arrivati anche in chiusura di questa puntata di Andala, ancora una volta purtroppo ci troviamo a dover parlare di quella che questa ipermilitarizzazione che sta avvenendo negli ultimi anni e che soprattutto purtroppo non coinvolge soltanto alcuni scenari all'interno del mondo, ma nostro malgrado, diciamo, anche quella è globalizzata e addirittura oggi ci parlano di Mediterraneo allargato, mentre invece questi ormai si sono spinti fino all'Africa centrale. Speriamo che purtroppo queste centinaia di tonnellate di bombe nucleari atomiche non vengano mai sganciate, perché altrimenti è chiaro che un olocausto nucleare sarebbe probabilmente un grosso colpo per l'umanità. Sicuramente un enorme crimine, così come fu lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Io manderei l'ultimo brano della puntata, Davide, e poi dopo ritorniamo per i saluti. Ebbene Davide, sulle note di questa versione di Ederlezzi in chiave libanese, insomma, auguriamo una buona serata alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, perché siamo giunti alla fine di questa puntata di Andala. Buona serata. Buonasera a tutti e a tutti.